Prima di suscitare l'interesse professionale degli psichiatri, il matematico russo-tedesco Georg Cantor, come noto, elaborò la teoria degli insiemi. Si era intorno al 1877. Esattamente 100 anni dopo, nel 1977, al Pallalido di Milano, il comune patrocinava l'Ambrogino d'Oro, una specie di gara per canzoni infantili cantate da infanti. Ebbene, una delle canzoni finaliste si intitolava Imparando l'insiemistica. 100 anni, insomma, per passare dalle riviste specializzate di alta matematica all'immaginario popolare. 100 anni di lavorio sordo, sotterraneo, di riflessioni, di scontri teorici, 100 anni di gente che va e gente che viene. Nel 1934 Frank Capra dirige Accadde una notte. L'interprete femminile è Claudette Colbert e quello maschile è Clark Gable. Il Centro Cattolico Cinematografico lo qualifica allora con una A seguita da una T e due C, il che significa che si tratta di un film per soli adulti, ma che, con le opportune correzioni della forbice, può essere anche proiettato in un oratorio o in una parrocchia con qualche riserva, facendo entrare solo gli adulti, proprio adulti, adulti maturi maturi, mi immagino. La cautela morale si dovette presumibilmente non tanto al fatto che in una sequenza di quel film Clark Gable si toglie la camicia, quanto piuttosto al fatto che sotto la camicia non portava niente. Il che, come riportano le cronache dell'epoca, fece crollare del 40 o del 50% le vendite della maglieria intima nei paesi dove il film venne proiettato. Erano tempi in cui il cinema aveva un potere enorme. Clare Gable, come diceva Alberto Menarini nel suo bel vecchio libro Il cinema nella lingua e la lingua nel cinema, un libro che era del 55, dice: Clare Gable è stato forse il più celebre amoroso dello schermo. E ciò gli è valso il prestigio sufficiente per diventare, pur nella mediazione dei personaggi cui dava vita sullo schermo, un modello di comportamenti. Qualcosa del genere a quel che accadde alle canottiere in grazia di Clare Gable accadde anche a reggiseni e mutandine in grazia rispettivamente di Jean Harlow e di Marilyn Monroe. Vantata da loro divi dell'Olimpo cinematografico, vantata l'allergia ideologica, vera o fasulla che fosse, ecco pronti all'imitazione stuoli di sudditi. Dal 1934 al 1994 trascorrono esattamente 60 anni. L'anno scorso il fatto mi era sfuggito, ma grazie a chi mi vuol bene ho potuto oggi rendermi conto che questi 60 anni sono stati sufficienti perché alla manifestazione Canora per ragazzi dello Zecchino d'Oro vinca una canzone in cui un infante dichiara a voce alta, alta e modulata, mi immagino, il suo rifiuto della canottiera. Qui non si è trattato di un trapasso dal dotto al popolare, come a proposito della teoria degli insiemi di Cantor, ma di un trapasso di età. La sindrome di Clare Gable, per diffondersi, ha avuto bisogno che si abbassasse l'età dello sviluppo e dei bisogni sessuali coatti indotti dal mercato televisivo. Quei genitori che hanno calato le braghe, la metafora è d'obbligo, in materia di canottiere e che si trovano alle prese con raffreddori, costipazioni, malmostosità varie, sanno allora chi ringraziare. Fino all'anno scorso ho regolarmente portato una canottiera ben pesante sotto la camicia, sotto il golf, la giacca, lo sciarpone e il giubbotto con cui solitamente vado in giro. Ho sempre sistematicamente sofferto di raffreddori, tracheiti, affezioni più o meno profonde delle vie respiratorie, nonché di tutti gli altri tragici disturbi ascrivibili a qualsiasi cambio di temperatura. Quest'anno, visti i risultati e alla faccia di Clark Gable e dei suoi antichi successi di primo amoroso dello schermo, visti i risultati ho deciso di cambiare. Di canottiere ne ho messe due, una sull'altra. I risultati sono identici. Ma ancora una volta, mi sento in salvo dal conformismo dilagante.